ci sono state diverse dichiarazioni, abbiamo avuto qualche contatto con la Digos che ci ha fermati fuori da un consiglio di quartiere, insomma ci sono state un po' di dei segnali che non ci sembravano promettenti, per cui abbiamo pensato di mettere le cose in chiaro prima per evitare di andare a far perdere tempo al sindaco e perderne anche noi, insomma, nel senso che se questo confronto non fosse un confronto serio su una reale alternativa possibile a questo progetto, forse non avrebbe tanto senso discuterne. Invece speriamo proprio che vengano fuori delle proposte che possiamo discutere e che magari possiamo almeno in parte far venire a sintesi. Un incontro che è stato anche anticipato da la presentazione del piano comunale per il verde pubblico che prevede 500.000 euro per il parco Don Bosco. Sì, non sappiamo bene per fare che cosa, perché per quanto ne sappiamo nei 18 milioni e mezzo di questo investimento ci dovrebbe essere anche le spese per la demolizione delle attuali scuole e la rimessa verde dell'area del perimetro delle attuali scuole, quindi non so che altri investimenti, però noi credevamo che gli investimenti per il parco Don Bosco fossero già dentro a questo importo che è così ingente anche per questo, credevamo aver capito così, però ce lo faremo spiegare oggi. La scuola come adesso pedagogicamente è molto più valida dell'altra, energeticamente forse no, ma direi che è l'unico vantaggio del nuovo edificio, quindi rimaniamo convinti che ristrutturare le scuole attuali, per quanto possa costare anche in termini economici, costerebbe comunque meno del nuovo progetto e comunque ambientalmente costerà senz'altro meno.